Rio de Janeiro, da quando sei piccolo ti abitui a vedere la morte coi tuoi occhi, ti abitui a vedere gli emarginati, i drogati, i poveri che non hanno niente da mangiare, da mettere sotto i denti, ti abitui alla vita violenta, alle armi, ai coltelli, alle pistole. Impari a vedere tutto, ma quasi tutto non sarà mai abbastanza per sopportare la vista della morte di tuo padre, di tuo fratello, di un membro della tua famiglia. Siamo nel 1992, una sera come tante, a Villa Cruzeiro, che è una delle favelas di Rio de Janeiro. All'improvviso scoppia una rissa, pochi secondi dopo tre spari, uno dei proiettili colpisce alla testa un uomo. Il suo nome è Almir Leite Ribeiro, ha 32 anni, ha già due figli. Non c'entrava niente lui con la rissa e si è trovato solo nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Vicino a lui c'è suo figlio più grande, è un ragazzino di 12 anni, non può credere a quello che vedono i suoi occhi, il padre che lì a terra immerso in una pozza di sangue. Quel ragazzino vorrebbe soccorrere il padre, sembra non ci sia nulla da fare, e quel ragazzino spaventato ha un nome altisonante, si chiama come un imperatore romano, si chiama Adriano Leite Ribeiro. Da grande vuole fare il calciatore. Devo tutto ai miei genitori, a loro e a Dio. Papà Almir e mamma Rosilda mi hanno aiutato a crescere, dicendomi cosa è giusto e cosa è sbagliato. Il resto l'ho imparato nella mia favela a Villa Cruzeiro, periferia nord di Rio. Sono nato e cresciuto lì, e in una favela si vedono cose che la gente comune non può neanche immaginare. Inizia giocando per strada quel bambino, assieme a tanti altri, in pochissimo spazio. Peraltro questa è una condizione che gli permette di affinare la tecnica, perché si possono evitare i colpi degli avversari, le buche, i sassi, tutto quello che si può trovare su un campo di calcio ricavato all'interno di una favela. Non so se siete mai stati dentro a una favela, io sì, insomma, è proprio dura, già da vedere, figurati vivere. Lui partecipa ai tornei di quartiere, viene notato da una delle più grandi squadre del Brasile, il Flamengo, entra nelle giovanili, gioca come terzino sinistro, ha un buon piede, però un tiro potente, ha un fisico asciutto ma muscoloso, e il suo allenatore comincia a spostarlo sempre più vicino alla porta. Alla fine quel ragazzo, Adriano, sta diventando un attaccante. Ho potuto giocare nel Flamengo solo grazie ai grandissimi sacrifici dei miei genitori, e questo ce l'ho sempre avuto in testa. Lì trovai compagni anche ricchi, molta invidia, ragazzi che cercarono anche di ostacolarmi. Ma io ho sempre sentito che non è giusto arrendersi di fronte alle discriminazioni, far finta di essere diversi da quello che si è solo per combattere l'invidia di chi ci sta di fronte. Ma io, soprattutto, non potevo mollare. Dovevo farlo per ringraziare i miei genitori. E ce l'ho fatta. Sembra un sogno che diventa realtà. Adriano, questo ragazzino che comincia a portare a casa i primi soldi guadagnati col pallone, con la madre e la nonna che scoppiano in lacrime, non possono credere ai loro occhi, e lui che diventa sempre più forte, comincia a segnare, a regalare assist ai compagni, diventa decisivo. Presto viene paragonato a un altro giovane brasiliano che in quegli anni sta facendo magia con la maglia dell'Inter e del Brasile, il fenomeno Ronaldo. Come per Ronaldo, anche per Adriano stanno per aprirsi le porte di Milano. Sembra l'inizio di una favola. Nell'estate del 2000 Massimo Moratti, presidente dell'Inter, ancora una volta apre il portafoglio e regala a Marcello Lippi un centrocampista brasiliano che sulla carta dovrebbe avere le qualità per cambiare volto a una squadra che da molti anni sta cercando di tornare alla vittoria. Il primo sponsor di questo centrocampista si chiama Ronaldo. Sì, Ronaldo, il fenomeno, dice che questo è forte e bisogna fidarsi. Allora il presidente sgancia 30 miliardi di lire al Corinthians, e da lì arriva un giocatore particolare con i baffetti, sembra un giocatore degli anni 20, di lui si dicono grandi cose. Beh, rimarrà uno dei peggiori acquisti nerazzurri di sempre, si chiama Vampeta. L'avventura di questo oggetto misterioso, costoso e inutile, Vampeta, è un fallimento totale. Dopo sei mesi viene rispedito in Brasile al Flamengo, e il Flamengo non ha molti soldi, l'Inter deve prendere qualcuno da lì e sceglie un giovane promettente, il nostro protagonista Adriano Leite Ribeiro, che entra in punta di piedi nello spogliatoio della squadra, che nel frattempo è passata a Cooper, è giovanissimo, non parla una parola di italiano, e lì vicino a gente come Toldo, Zanetti, Materazzi, Vieri, Ronaldo, Di Biagio, Recoba, e i tifosi sembrano non accorgersi neanche della sua presenza. Poi c'è un amichevole pre-campionato, 14 agosto 2001, l'Inter gioca a Madrid, in campo appunto ci sono Real Madrid e Inter, al 90esimo il risultato è sull'1-1, c'è una punizione dal limite per i nerazzurri e a sorpresa il pallone lo sistema lui, Adriano. Sono convinto che se Seedorf riesce a scavare la palla sopra la barriera, Casillas non vede niente. Parte Adriano, sinistro, gol, incredibile, il sinistro del 19enne brasiliano, festeggiato adesso, vedete, da tutti i compagni increduli per questa botta incredibile, un fulmine di Adriano Leite Ribeiro e un sinistro incredibile, Iker Casillas non vede il pallone. E il calcio d'estate tradizionalmente è fonte di illusioni, alimenta sogni effimeri che poi magari si sciolgono come neve al sole appena si alza la posta in gioco, appena, come si suol dire, arrivano i tre punti da giocarsi, e i tifosi nerazzurri lo sanno benissimo questo, ma quello che hanno visto alla televisione, cioè quel sinistro potentissimo sganciato da quel ragazzo sconosciuto, si stampa nella loro mente, alimenta i sogni estivi in una stagione che già inizia con Vieri e Ronaldo, che però vanno subito ai box. Forse sarà proprio il resto di Vampeta, cioè quello preso al posto di Vampeta, la vera sorpresa dell'Inter di Cooper. Suo padre Almir faceva il fattorino e 9 anni fa fu colpito casualmente alla testa da un colpo di pistola esploso in una rissa alla quale era estraneo. Fu salvato, ma il proiettile gli è rimasto conficcato in testa. In queste condizioni ha dovuto faticare molto per dare al figlio la possibilità di sfondare nel calcio. Zagaio, l'ultimo tecnico di Adriano nel Flamengo, dice: Adriano ha soltanto 19 anni, devono ancora farlo maturare. Chi lo ha acquistato ha fatto un ottimo investimento. E ora papà Almir non ha più bisogno di lavorare, ci pensa il figliolo. Con i primi soldi che guadagna, Adriano fa quello che farebbe chiunque nella sua situazione. Porta tutta la sua famiglia lontano dalla favela di Villa Cruzeiro, la sistema a Barra de Tijuca, che è un quartiere di Rio dove vivono molti calciatori, allenatori, dirigenti brasiliani. Insomma, la sua si sta configurando come la classica storia di riscatto, il ragazzino che ha creduto nei suoi sogni e che adesso sta dando un futuro migliore alla sua famiglia, soprattutto al padre, Almir, che per lui è una sorta di supereroe, perché ricordiamoci, il padre sta vivendo con un proiettile ancora piantato nella testa, cosa che naturalmente gli ha cambiato la vita. Fa fatica a lavorare, non può più badare alla famiglia. Adriano si carica tutti sulle spalle, vuole dare peraltro anche a suo fratello Tiago la possibilità di studiare. A 19 anni lui è già il capofamiglia, il punto di riferimento per tutti, tutti fanno affidamento su di lui. Avevo 10 anni ed ero vicino a mio padre. Ci fu una sparatoria, sentii 3 colpi di pistola e vidi mio padre cadere a terra. Cercai di soccorrerlo, ma i miei amici me lo impedirono, era una cosa troppo impressionante. Quel giorno è cambiata la mia vita. Ho smesso di pensare come un bambino e sono diventato grande. Ho cercato di aiutare la mia famiglia come potevo. A loro devo tutto, perché qui la vita è fatta di assalti, rapine e droga. E per restarne fuori devi avere alle spalle una famiglia solidissima, come la mia. È un momento delicato per la carriera di Adriano, è andato in Europa, in un mondo completamente diverso a quello del Brasile, ha segnato, è vero, questo gol contro il Real Madrid che gli ha reso un po' più facile la vita, si è guadagnato l'amore o quantomeno le aspettative dei tifosi dell'Inter, ma è veramente giovane, viene mandato in prestito alla Fiorentina, lì dimostra di essere un giocatore vero, 5 gol in 16 partite, in una squadra che è sull'orlo della retrocessione, del fallimento, che peraltro si materializzeranno a fine stagione. L'Italia però si sta accorgendo di lui. Nell'estate del 2002 la sua carriera spicca al volo, va al Parma e in Emilia il ragazzino brasiliano si trasforma in Adriano l'imperatore. Adriano nel Parma trova al suo fianco Adrian Mutu, anche lui portato in Italia dall'Inter, anche lui, se così si può dire, sedotto e abbandonato dai nerazzurri, farà grandi cose lontano da Milano. I due avranno anche un destino simile perché erano due teste strane, però nel frattempo entrano in sintonia, sembrano fatti per giocare assieme, perché Mutu è veloce, tecnico, Adriano è muscolare, potente, ha questo sinistro letale, è letale anche di testa. Alla fine del campionato segnerà 15 reti, soprattutto col sinistro, senza calciare neanche un rigore, farà anche un gol di tacco al Milan, insomma è pronto per essere riacquistato dall'Inter. È proprio adesso che la sua vita sta diventando sempre più una favola, arriva la prima caduta negli inferi. È il 5 agosto 2004, sul sito dell'Inter vengono pubblicate queste poche righe. Un gravissimo lutto ha colpito nella notte Adriano. A Rio de Janeiro, dopo un malore improvviso, si è spento Almir Leite Ribeiro, 44 anni, padre dell'attaccante nerazzurro. Adriano, accompagnato da un dirigente e dal procuratore Gilmar Rinaldi, raggiungerà il Brasile nelle prossime ore. Massimo Moratti, il presidente Giacinto Facchetti, i dirigenti e i dipendenti dell'FC Internazionale Milano, Roberto Mancini, lo staff tecnico e i compagni di squadra partecipano commossi al dolore di Adriano. Adriano è devastato, è stritolato dal dolore. Un mese prima aveva vinto la Coppa America con la maglia del Brasile, il padre Almir era felicissimo col figlio che chiude da capocannoniere, che viene premiato come miglior giocatore del torneo, segna anche in finale contro l'Argentina. Adesso tutto questo non ha più senso. Adriano ha perso quel padre che è stato il suo punto di riferimento, il suo eroe, e non ha più interesse verso quello che è stato. Nella sua testa conta solo quello che non c'è più. Adesso che ha tutto, soldi, successo, un futuro glorioso davanti, gli viene presentato questo conto impossibile da pagare, impossibile da quantificare. Adriano l'imperatore, che torna a essere quel ragazzino impaurito, costretto a guardare il padre sdraiato per terra in una favela di Rio con un proiettile conficcato nel cranio. E dopo la morte del padre, Adriano prova a reagire, riparte da dove aveva lasciato, continua a segnare gol a raffica. In meno di 12 mesi ne segnerà 40 tra Inter e Brasile. Sembra che abbia superato alla grande il trauma della morte del padre, però è tutta solo una maschera, e dietro a questa maschera si sta nascondendo un abisso di dolore. E Adriano sul campo si porta letteralmente via gli avversari. Quando accelera c'è gente che si appende alle sue spalle per sperare di farlo cadere, e magari non ci riesce neanche. Lui è un mix di potenza, di classe. Poche volte si è visto tutto questo su un campo di calcio. La Milano nerazzurra è impazzita per lui. Parte pallone dentro, una mischia, allontana la difesa, poi Veron mette via il pallone. Adriano, contropiede, uno contro due, attenzione all'imperatore, salta il primo, attenzione, è uno contro uno, attenzione, è uno contro uno, attenzione, cerca di saltarlo, ne salta, arriva il secondo, il tiro, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol. Tutti i piedi anche a casa, l'imperatore ne ha già fatti due. E con questo gol gli interisti si convincono di avere in casa un altro fenomeno. Ronaldo, il primo, se n'era andato da un paio d'anni, aveva anche lasciato amarezza dietro di sé perché era stato aspettato durante i suoi infortuni, era stato coccolato da Moratti, da tutti i tifosi, e poi appena guarito se n'era andato al Real Madrid. Adesso Adriano è arrivato per cancellare quel ricordo, e l'imperatore arriva a gennaio 2004, porta l'Inter ai preliminari di Champions League, e anche nella stagione successiva non smette di segnare in campionato, in coppa, segna addirittura di più di Bobo Vieri, uno che con l'Inter ha la media di quasi una rete a partita, diventa sempre più l'uomo immagine del calcio brasiliano. È giovane, forte, è implacabile, pronto a conquistare il mondo, e sulle sue spalle sono riposte le speranze di due popoli, il popolo brasiliano ma anche il popolo dell'Inter, che insegue uno scudetto che manca da così tanto tempo. E poi c'è la Coppa del Mondo a Germania 2006. Adriano avrà 24 anni e il paese non vede l'ora di sollevare la sesta Coppa della sua storia. Il copione sembra scritto e prevede un bel finale. Purtroppo la vita non segue sempre gli spartiti e le aspettative. Da questo momento in poi i demoni prenderanno possesso del corpo tutto muscoli di Adriano Leite Ribeiro. l'impero sta per cadere. L'imperatore non lo sa ancora. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. Adriano Leite Ribeiro, il classico figlio delle favelas che nasce nel 1982 a Rio de Janeiro, ha l'infanzia tipica dei ragazzini delle favelas, pallone, povertà, dolori, a 10 anni quando il padre viene colpito da una pallottola in testa, se la caverà ma non sarà più in grado di aiutare la sua famiglia, che finisce tutto sulle spalle di questo ragazzo così promettente, con questo fisico impressionante, con questo sinistro micidiale, che arriva in Italia all'Inter, fa diciamo anticamera di successo a Firenze e poi a Parma, e poi torna nella squadra del presidente Moratti, pronto a vincere tutto col Brasile, con i nerazzurri, e poi all'improvviso muore il padre Almir. Da quel momento l'imperatore non sarà più lo stesso, il dolore è troppo grande anche per lui, che ha fatto della forza la sua più grande qualità. E lui segna ancora parecchio, indica il cielo dopo ogni gol, pensando al padre che non c'è più, però si vede insomma che il suo sguardo è sempre più triste, che l'allegria se ne sta andando, è in atto un processo irreversibile, e i gol sì servono a spostare il problema, a mascherare quello che sta accadendo dentro di lui, però la discesa è iniziata ed è una discesa molto ripida verso l'inferno. Nel frattempo il calcio in Italia viene travolto da un lato dallo scandalo di Calciopoli, dall'altro però viene premiato con la Coppa del Mondo in Germania, proprio in un mondiale che doveva essere la consacrazione di Adriano di fronte agli occhi di tutti, con l'imperatore che avrebbe dovuto condurre il Brasile alla sesta Coppa. Adriano che va in Germania ma recita un ruolo più da comparsa che da protagonista. Peraltro per i tifosi dell'Inter questa non è una sorpresa, perché il giocatore del futuro all'improvviso si è spento, la macchina di muscoli si è inceppata, arrivano gli infortuni, arrivano le assenze sempre più lunghe, con il sorriso che ormai non c'è più. Ho perso un anno e mezzo della mia vita, c'erano troppe cose che mi mettevano giù, non riuscivo a tenere i miei problemi fuori dal campo, a gestirli bene. È stato uno sbaglio mio, dovevo dimenticare il mio momento brutto e cercare di fare il meglio possibile nel calcio per dimenticare i miei problemi, ma non è andata così. Sono triste perché non posso aiutare la squadra, però adesso mi impegno per tornare. Se faccio così come sto facendo adesso, ho grandi possibilità di tornare. Al mondiale segna 2 gol contro l'Australia col Ghana, gioca 27 minuti del quarto di finale contro la Francia che sancirà l'eliminazione del Brasile, e poi ritrova l'Inter, ritrova un campionato completamente ribaltato dalle sentenze di Calciopoli, con l'Inter che vincerà quel campionato senza la Juve che è in B, con il Milan penalizzato, con uno spogliatoio tutto nuovo composto da giocatori straordinari. È arrivato Julio César, è arrivato Maicon, Ibrahimovic, Vieira, Crespo, e c'è una concorrenza agguerrita. In realtà Mancini pensava a Ibrahimovic titolare fisso con al suo fianco Adriano, insomma sarebbe una coppia devastante, sarebbe un mix di tecnica e potenza che nessun altro club al mondo avrebbe avuto la possibilità di schierare, ma la vita si è messa di mezzo, ci sono i demoni che abitano nella testa dell'imperatore e che lo stanno spingendo in una spirale dalla quale non uscirà più, è alla ricerca di qualcosa che lenisca il dolore. Prima la trova nel gol, adesso è più facile approdare al collo di una bottiglia che diventa il nemico amico di tanti calciatori che non riescono a superare un trauma, e nel suo caso il trauma è forte, è la morte del padre. Ero troppo legato a mio padre, stavo vivendo una stagione bellissima e con la sua morte è finito tutto. In quel momento non riuscivo a dormire e a fare nulla di positivo per me. Pensavo troppo ai problemi, per dormire ero costretto a bere. Solo così riuscivo a prendere sonno, anche se so che mi stavo facendo del male. E la notizia negli ambienti del calcio comincia a circolare a bassa voce, arriva a tutti, arrivò anche a me. Adriano è un alcolizzato, si dice che pare che in realtà lui comincia a non giocare, cominciano a tenerlo fuori, cominciano gli infortuni muscolari, i mali misteriosi. Lui ha perso tutti i suoi poteri di fronte alla morte di suo padre. L'imperatore sta per mettersi in ginocchio, i sogni stanno diventando degli incubi. E spesso abbiamo pensato ai calciatori come ragazzi viziati che guadagnano montagne di soldi rincorrendo un pallone senza un briciolo di coscienza in testa. Insomma, spesso si parlò così di Adriano Leite Ribeiro tra il 2006 e il 2007, come di uno che semplicemente per capriccio stava buttando via la sua fortuna e calpestando anche i sogni di tutta una squadra, di tutto un popolo di tifosi, lui che aveva fatto intravedere di poter diventare uno dei giocatori più forti di sempre, che invece si sta perdendo all'improvviso. E allora viene bollato come svogliato, come scansafatiche, da persone che non conoscono la sua storia. Chi lo vede tutti i giorni capisce quello che sta vivendo. Lui è al centro di un vero e proprio dramma personale. L'Inter, per cercare di recuperarlo, si gioca la carta del ritorno in Brasile, va in prestito al San Paolo per vedere se riesce a curare i suoi mali. In realtà tutto peggiora, è perché l'aria di casa per lui diventa tossica, conduce una vita ben lontana da quella di un atleta professionista, passa le nottate nei locali a bere, a ballare, frequentando i vecchi amici delle favelas, gente che all'inizio sembra volerlo aiutare ma che si sta approfittando di lui. Insomma, attorno ai calciatori c'è sempre questo universo di personaggi particolari che succhiano il sangue più che dare qualcosa. Finisce l'esperienza in Brasile, torna a Milano, Moratti lo attende di nuovo a braccia aperte, lo riporta nel gruppo e lo affida a José Mourinho. Mourinho capisce subito che c'è qualcosa che non va. E anche i suoi compagni dell'Inter, Zanetti, Cordoba, cercano di stargli vicino, di motivarlo, cercano di tenerlo lontano da brutte amicizie, da brutte abitudini, ma per lui non c'è via d'uscita. Quel ragazzo che aveva spaccato la porta del Bernabeu con la sua cannonata, adesso è rimasto un uomo solo e ben lontano da quello che poteva dare. Insomma, tutti cominciano a pensare che Adriano sia irrecuperabile, ne parla così Javier Zanetti. Ogni giorno dopo gli allenamenti volevo sapere cosa andasse a fare o se uscisse di notte. Mi preoccupavo che potesse avere problemi, ma dopo quel giorno nulla fu più come prima, anche se dopo ogni gol esultava guardando il cielo. Io e Moratti abbiamo deciso di accoglierlo come un fratello e proteggerlo. Un sacco di volte passavamo con Cordoba le sere con lui, dicendogli che era un mix tra Ronaldo e Ibrahimovic e che poteva essere meglio di entrambi. Ma non siamo riusciti a salvarlo dalla depressione. E questa cosa mi rattrista ancora oggi. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. La carriera di Adriano Leite e Ribeiro ormai è ferma, la morte del padre lo ha fatto piombare in una spirale fatta di depressione, di alcolismo, e sta facendo avanti e indietro tra l'Italia e il Brasile con Moratti che fino all'ultimo prova a recuperarlo, ogni volta che lui torna a Milano però la sua condizione peggiora e le strade a un certo punto sono destinate a separarsi. Ero triste e depresso in Italia, così ho cominciato a bere. Era l'unica cosa che mi rendeva felice. Bevevo di tutto, whisky, vino, vodka, birra, specialmente birra, tantissima. Non riuscivo a smettere e così ho dovuto lasciare l'Inter. Non sapevo come nascondere il mio disagio. Arrivavo sempre ubriaco agli allenamenti. Non volevo mostrare la mia situazione, ci tenevo a non saltare gli allenamenti. Eppure poi mi presentavo in quello stato. E così lo staff mi portava a dormire in infermeria. L'Inter mi copriva. Diceva alla stampa che ero infortunato, che avevo problemi fisici. Poi ho capito che la gente che avevo intorno era un problema. Gli amici non mi hanno mai aiutato. Lui è un ragazzo fragile, uno che nella vita si è lasciato travolgere dagli eventi, si è fatto sfruttare dalle persone sbagliate che hanno approfittato della sua fama, dei suoi soldi. Lui che doveva essere il nuovo simbolo del calcio brasiliano, lui che aveva dimostrato a tutti che poteva diventare il giocatore più forte del mondo, e chi l'ha visto giocare all'inizio come me può confermarvelo. E lui ha dimostrato che la vita fuori dal campo è un'altra cosa, puoi essere forte, ma se non hai le spalle larghe per sopportare il peso dell'esistenza, tutto quello che, ahimè, nella vita ti capita, questo si abbatterà su di te e ti abbatterà come un castello di sabbia. E questo è quello che succede a Adriano. È una carriera finita in largo anticipo, non ha ancora 30 anni, praticamente è già un ex calciatore, non ci sta a stare bandiera bianca, ci prova ancora, vuole provare a rialzarsi per un'ultima volta. E Adriano nel 2010 ritenta l'avventura italiana con la maglia della Roma e i tifosi sono entusiasti, pensano a una coppia irresistibile, Totti e Adriano. Io ricordo le telefonate, i messaggi dei miei amici tifosi romanisti che dicevano: adesso non ce n'è per nessuno, e io dicevo: occhio però, state attenti a non illudervi come già era successo ai nerazzurri. Purtroppo avevo ragione. Claudio Ranieri, l'allenatore, sopporta le sue scorribande notturne, ma dopo sei mesi tutti hanno capito che quello che hanno davanti è un uomo, è un giocatore irrecuperabile. Torna il Brasile, gioca ancora, Corinthians, Flamengo, Atletico Paranense, pochi gol, chili in eccesso, il fantasma, un lontano parente di quello che era stato l'imperatore. Pensate che nel 2011 pesa già 101 kg con il viso che si è veramente imbolsito, con avventure sempre più brevi, contratti che vengono chiusi in anticipo, insomma una vita buttata al vento che lui vive tra alcol, feste notturne, ritardi, allenamenti saltati, amicizie pericolose che finiscono per metterlo nei guai. Nel 2013 regala al più pericoloso narcotrafficante di una favela a nord di Rio una motocicletta da $15,000. L'imperatore paga caro questo dono, finisce indagato, rischia 25 anni di carcere per traffico di droga, viene assolto solo per insufficienza di prove, e meno male, perché sarebbe stata una fine ancora più drammatica. L'ultima possibilità arriva dagli Stati Uniti, lo chiamano a Miami nel 2016, $10,000 al mese e metà dei ricavi delle vendite delle magliette, e Adriano firma dopo tre mesi, si rende conto che è tutto un grande bluff e stavolta dice per sempre addio al calcio. Adesso sta provando Adriano a riprendere in mano la sua vita, è tornato in Brasile, che è l'unico posto del mondo dove lui si sente felice, anche se poi in realtà si sente felice anche per motivi sbagliati. Ha attorno a sé la sua famiglia, quella famiglia che a meno di 20 anni lui aveva portato via dalle favelas, e adesso sta cercando la famiglia di salvare lui da quella fine che hanno già vissuto troppe stelle del calcio, di molte abbiamo parlato, mi viene in mente Garrincha, mi viene in mente Best, Skoglund, calciatori fenomenali che non hanno saputo resistere all'onda d'urto di una vita che li ha sconfitti e di una bottiglia che li ha spezzati in due. La storia di Adriano rimane quella di un grandissimo campione mancato. Se volete riascoltare le nostre storie, lo sapete, c'è il podcast di Radio 24, se no scrivetemi, io sono qua, sapete dove trovarmi. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Fabio Donolato, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.